Ora do senz'altro rispondo. Allora vorrei chiamare al tavolo il professor De Benedetti per la prima relazione. Che tempi sono previsti? Tra noi penso che non abbia bisogno di grande presentazione il professor De Benedetti. Vero che ormai è troppo noto in Italia soprattutto e con cattedra alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e devo aggiungere fedelissimo nostro docente da credo al quarto anno e veramente me li si lasci dire con l'occasione quanto siamo felici della sua presenza. Grazie. Quanto siamo arricchiti della sua attività, che senza pretese, perché insomma la nostra è una scuola che sta nascendo tutto sommato, vero, ma ci dona così largamente il suo contributo e sono queste cose che fanno crescere una scuola. In modo particolare, professore, in questa occasione io sento l'obbligo veramente di dire la nostra riconoscenza e la nostra gioia. Ecco, non rubo altro tempo, passo senz'altro a lei la parola. Grazie mille, Monsignore. Ma io sono primo solo per ragioni cronologiche della materia, evidentemente. E le cose che dirò sono, diciamo così, solo un assaggio, una esemplificazione di alcuni casi di un problema grosso che credo sia per il momento finora sentito da pochissimi, sia in campo ebraico sia in campo cristiano. Io vorrei che il mio discorso fosse, le mie considerazioni fossero recepite anche da coloro che nel mondo ebraico, specialmente il mondo ebraico italiano, traducono Bibbia. Speriamo che qualcuno, diciamo così, consenta a una conclusione che farò, a un auspicio finale, che non è semplicemente, diciamo così, di natura esornativa, ma tocca la comprensione della scrittura. Leggevo nel libro di Rosenzweig La scrittura, una raccolta di saggi, La scrittura, che è uscito in italiano l'anno scorso, queste considerazioni che potremmo dire pessimistico-ottimistiche. È noto che Rosenzweig ha tradotto in tedesco la Bibbia ebraica insieme a Buber. Poi, quando Rosenzweig è morto nel 29, Buber ha continuato e ultimato l'opera. E durante il lavoro c'è stata una elaborazione teorica notevole, specialmente da parte di Rosenzweig, e un carteggio e una produzione, diciamo così, un fallout sui problemi del tradurre. Rosenzweig dice: tradurre significa servire due padroni, dunque nessuno ne è capace, però poi nella prassi tutti devono tradurre e ognuno lo fa. Questa è una considerazione più generale, in quanto per Rosenzweig parlare è già tradurre, ma vale in particolare per la traduzione biblica vera e propria, e perché purtroppo, qui dico purtroppo, tutti lo fanno. E poi cita una frase di Schleiermacher che in seguito critica, ma che noi useremo in un'altra direzione. A proposito della traduzione di Platone fatta da Schleiermacher diceva che le traduzioni si dividono in quelle che lasciano il più possibile in pace lo scrittore, cioè il traduttore, e gli fanno muovere incontro il lettore, e quelle che lasciano il più possibile in pace il lettore e gli fanno muovere incontro lo scrittore. Vedremo quali sono nelle traduzioni bibliche di parte ebraica, e farò anche degli esempi non di parte ebraica, le prime e quali sono le seconde e a quali io darei la preferenza. Naturalmente devo partire da un fatto che è anteriore alla traduzione. Devo partire dalla lettura della scrittura nella sinagoga. Devo partire da questo perché le particolarità con cui la scrittura viene trattata, diciamo così, nella sinagoga, si riflettono sulle giustificazioni della traduzione in campo ebraico e sulle interpretazioni che di tale traduzione in generale si danno. Per quanto riguarda la lettura della scrittura, io riporto qualche cosa da una relazione che avevo fatto in un convegno intitolato Letture e traduzione della Bibbia, o qualche tradurre la Bibbia per il popolo di Dio, che si era svolto a Brescia circa 5 o 6 anni fa. Ora, nella sinagoga si legge, come tutti sanno, la Torah e poi si legge la Haftarah, cioè la pericope profetica, profeti anteriori o posteriori, secondo i casi. Ora, questo ha una ricaduta, potrei dire, sulla traduzione. Cominciamo da alcuni particolari esterni, che però sono molto importanti, cioè l'onore reso alla Torah, al rotolo della Torah. Shimon Bar Yochai, che era un maestro del secondo secolo dell'era volgare, dice: quando il Sefer Torah, cioè il rotolo, è portato in pubblico per la lettura, si aprono le porte celesti di misericordia e si ridesta l'amore dall'alto. Allora si deve recitare Berik Shemeh, che è una preghiera aramaica su cui eventualmente poi si dirà. Ecco, la lettura della Torah è quella che apre le porte celesti. Questo testo è di volta in volta trattato, diciamo così, nella sinagoga, ben inteso, come sommo pontefice o come, diciamo così, persona. È vestito come il sommo pontefice, quindi ha il mantello, i campanellini attaccati ai puntali, eccetera, eccetera. In certo senso, una volta che il culto sacrificale è cessato, il culmine della, diciamo così, del governo passa dal sommo pontefice alla parola di Dio vera e propria. Poi ci si deve alzare quando passa il rotolo, per un ragionamento kal vachomer, cioè a fortiori, se il Levitico dice: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, io sono il Signore, solito capitolo 19. A fortiori bisogna alzarsi davanti a qualcosa che ha, a qualcuno direi, che è più importante del vecchio. Poi ci sono delle norme halakhiche notevoli, molto numerose. Uno non può sedere su un sedile dove c'è un rotolo, non si può vendere se non per certi particolari scopi, cioè lo studio, non per comprarsi da mangiare, ma solo per comprarsi del sapere, diciamo così. Se un rotolo è profanato si fa doppio lutto, cioè si fa la lacerazione che si fa per un defunto, ma se ne fa non una ma due, eccetera, eccetera. No? Queste sono alcune delle indicazioni. Leggere la Torah è un atto di testimonianza, non solo in senso metaforico, ma anche in senso giuridico. E quindi non possono leggere, essere chiamati alla lettura nella stessa occasione, padre e figlio o due fratelli, perché giuridicamente non possono testimoniare l'uno per l'altro. Ci sono alcuni passi che si leggono in piedi e in particolare la Shirat Hayam, cioè la Cantica del Mare, Esodo 15, e i due decaloghi, anche se in alcune comunità non si leggono in piedi neanche questi, perché non sembri che dentro alla parola di Dio c'è qualche cosa che è più parola di Dio. Ora, in una certa epoca che precede l'era volgare, nella sinagoga è entrata una forma di traduzione, cioè quella che si chiama abitualmente Targum. Targum vorrebbe dire traduzione, ma nell'uso poi non ogni traduzione è chiamata Targum. Quali sono le modalità e le caratteristiche di questa prima e fondamentale traduzione della Torah? Cioè, questo riguarda soltanto il Pentateuco, non i Nevi'im e i Ketuvim, naturalmente. Lo si vede dagli obblighi che ha il Meturgemam, cioè il traduttore. Tra parentesi, una curiosità. L'interprete dei consoli cristiani in Terra Santa si chiamava Dragomanno, Meturgeman, e non deve leggere la traduzione, non deve guardare il libro, il traduttore. Mentre il lettore della Torah deve guardare il libro. E questo è molto importante. Bisogna che colui che traduce la Torah non dia l'impressione, non guardando il libro, di avere una traduzione scritta. Scritta è solo la Torah. Potremmo dire che la traduzione non è in questa situazione, non è un fatto, ma è un atto, un evento. Ed è un evento orale e transitorio. Perciò nel culto della Torah, da quest'epoca in poi, la traduzione naturalmente è in aramaico, è vero? Noi abbiamo di fronte alla parola di Dio, diciamo così, qualcosa che deve essere letto e qualcosa che deve essere detto. E non sono, per lungo tempo almeno, non sono intercambiabili. Il Meturgeman, dopo ogni versetto della Torah, fa la sua traduzione. Quando poi si è introdotta anche l'abitudine di tradurre la Haftarah, cioè la pericope profetica, che è molto meno importante, tant'è vero che oggi, per esempio, la Torah si legge dal rotolo manoscritto, invece l'Haftarah si legge da un libro qualunque come questo. Allora, quando si è introdotto l'uso di leggere, di fare Targum anche dell'Haftarah, il Targum la traduzione orale dell'Haftarah si fa non dopo ogni versetto, ma dopo ogni tre versetti. E quindi necessariamente è riassuntiva parafrastica, per forza. Ci sono alcuni passi che non si traducono, ossia non si traduce per esempio la storia di Tamar e Giuda, i passi scabrosi, diciamo così, non si traducono. E a questo punto nasce un problema squisitamente pratico. Posto che non si può uscire dalla sinagoga durante la lettura della scrittura, cioè quando si dice, il termine tecnico è non si può uscire tra uomo e uomo. Perché si dice tra uomo e uomo? Perché alla lettura sono chiamati sette, secondo le occasioni, sette o quattro o tre uomini. Allora non si può uscire tra uomo e uomo, significa non si può uscire tra la lettura di un brano e di un altro brano della scrittura. Si può uscire tra versetto e versetto, cioè tra un pezzo di Targum, tra un brano di Targum e un altro brano di Targum. La questione non è leggera, cioè implica un giudizio di valore più o meno grande sulla traduzione. E la risposta, la domanda era stata fatta da Rav Pappa, e la risposta, questo è tutto nel trattato Berakot del Talmud, il primo trattato, il Talmud babilonese, e la risposta è teku, che è una formuletta che vorrebbe dire sospeso. Ossia, non abbiamo un'opinione definitiva. Quindi, è vietato, sarebbe irriguardoso, empio, uscire tra uomo e uomo, quanto a uscire tra, diciamolo in italiano, tra traduzione e traduzione, sospeso. Però in questo caso poi la prassi è tuzioristica, diremmo noi. Ossia, siccome la lettura è considerata un comando biblico, allora si fa la siepe, termine rabbinico per dire si va un po' più oltre nell'osservanza di quanto imponga la scrittura. E perciò facendo la siepe, anche se teoricamente è sospesa la risposta, non si deve uscire tra uomo, tra versetto e versetto. Quindi sembrerebbe che la traduzione non abbia in sé la sacralità, evidentemente, del testo, ma che in qualche modo ne resti, come dire, coinvolta. E a questo punto dobbiamo ancora fare una considerazione sulla oralità. Da quel che ho detto è chiara la oralità della traduzione del Targum. Però non dobbiamo dimenticare che qui abbiamo una oralità della scrittura. Vorrei leggere anche qui un pensiero di Rosenzweig. Dice: la Bibbia è un libro che vuole essere fisicamente ascoltato. In ebraico si chiama anche mikra, che vuol dire lettura, ma non lettura oculare, diciamo così, ma lettura acustica. Del resto, ricorderanno tutti che nelle confessioni Agostino si meraviglia molto andando a trovare Ambrogio, che leggeva con gli occhi e fa delle stranissime ipotesi. Dice: ma forse vuole salvarsi la gola per le prediche, oppure non vuole che qualcuno, sentendolo leggere ad alta voce, gli chieda delle spiegazioni e gli faccia perdere del tempo. Cioè, i testi antichi erano fatti per essere letti ad alta voce anche dal solo. E per questo il cursus e tutte queste cose qui. Allora, dice Rosenzweig che quindi la Bibbia non va letta silenziosamente, ma anche nella lettura privata va cantilenata a bassa voce, perché si mantenga il continuo dialogare del testo. Allora, potremmo dire che nel culto sinagogale abbiamo una oralità della scrittura, della Bibbia. Continuiamo a dire scrittura perché nelle nostre lingue si dice scrittura, però è un ossimoro nel nostro contesto. Oralità della scrittura, ma una doppia oralità del Targum, ossia la lettura della Torah è fatta da un libro, ma deve essere udita. La lettura del Targum non deve essere fatta neppure da un libro scritto, ma deve essere prodotta oralmente e udita oralmente. Questo tipo di traduzione, quindi, che sta alla base di tutta la tradizione traduttoria ebraica, è un evento liturgico, comunitario e orale. Nel seguito, noi sappiamo che in seguito poi il Targum è stato scritto, cioè uno dei paradossi ebraici è che la tradizione orale sta scritta, anche se non è limitata allo scritto. E abbiamo avuto addirittura una canonizzazione di un particolare Targum, cioè quello di Onkelos, che una volta si riteneva che fosse lo stesso che Aquila, non è, è tutt'altro che certo. Comunque, il Targum di Onkelos è stato così canonizzato che addirittura ha ricevuto un apparato masoretico e in tutte le Bibbie rabbiniche, o anche le Bibbie non proprio rabbiniche ma tradizionali, il testo biblico è accompagnato dal Targum di Onkelos. E si è stabilizzata questa norma, che vi esprimo con un testo sempre talmudico. Disse Rav Huna Bar Yehuda a nome di Rabbi Ammi, sempre uno dovrebbe completare le sue parashot, cioè le sue pericopi, con l'assemblea. Due volte la scrittura e una la traduzione, anche di nomi propri come Atarot e Divon, numeri 32, perché chiunque completa le sue parashot con l'assemblea allunga i suoi giorni e i suoi anni. Cosa vuol dire questo? Cioè che bisogna in certo senso precedere e far seguito alla lettura comunitaria con un lavoro personale ma finalizzato alla comunità. Quindi la parasha deve essere letta due volte in ebraico e una volta in aramaico, senza saltare neppure la traduzione, che non è traduzione evidentemente, dei nomi propri. Quest'uso di leggere il Targum di Onkelos è durato molto lungamente. Poi a un certo punto il Targum si è sacralizzato, già adesso nel contesto che presento, si è sacralizzato al massimo nel momento in cui non serviva più da chiarimento del testo, ossia nel momento in cui la gente non capiva più l'aramaico. E allora c'è stata una, direi, una biforcazione. Da un lato, i dotti o anche semplicemente i pii, direi che per secoli fino a epoca recentissima l'uomo comune ebreo osservante era in grado di leggere anche il Targum, in Italia un po' meno, ma diciamo fra gli Ashkenaziti soprattutto, di leggere il Targum, ma era un fatto, doveva farsi un Targum del Targum, se così posso esprimermi, ossia era cessata la sua funzione di Targum ed era diventata una specie di aggiunta sacrale al testo sacro. Questa è una delle due biforcazioni. L'altra biforcazione è stata sostituire questa lettura con qualcos'altro. Di solito nei secoli andati si sostituiva o con il commento di Rashi o con un'opera yiddish, Tzena Ur Ena, che è un'antologia midrashica scritta in yiddish, che in realtà era fatta per le donne, come tutta l'antica letteratura yiddish, e poi è diventata una lettura popolare. Oggi è ammessa la lettura di un commento, scritto nella lingua del lettore. Però nel Medioevo, direi intorno al secolo XII, è nata una questione. Posto che la lettura della traduzione, cioè del Targum, è diventato obbligo, si esce dall'obbligo, uscire dall'obbligo è un'espressione tecnica che vuol dire si adempie al precetto, si esce dall'obbligo leggendo una traduzione Be'la'az. Cosa vuol dire Be'la'az? La'az è un acrostico, una sigla, che vuol dire Lashon Nam Zar, lingua di un popolo straniero, ed è un'espressione che designa le traduzioni volgari che nel Medioevo si facevano, non solo nel mondo ebraico, è vero. Queste traduzioni volgari venivano chiamate loazim. E ci sono delle espressioni nelle varie lingue europee di allora. Tradurre la Bibbia nella lingua del luogo si diceva, in Italia si diceva latinar, ma non si traduceva in latino, si traduceva in volgare. In Provenza si diceva ladinar, nella Francia del Nord si diceva aromancé, e così via. Questi loazim, di cui si conservano dei frammenti e manoscritti, alcune sono complete, altre sono manoscritti, e si conservano anche dei glossari, non hanno valore alacchico, ossia non rappresentano un elemento, diciamo così, giuridico-liturgico del culto. Nello stesso tempo, mi sembra che sul culto sinagogale, quello che era necessario dire, l'ho detto, nello stesso tempo è avvenuto un lento spostarsi del Targum verso il Midrash, ossia della traduzione più o meno parafrastica, e direi che la meno parafrastica delle traduzioni targumiche è ancora onkelos, si potrebbe dire, verso il Midrash, ossia verso il commento interpretativo. Noi abbiamo in italiano, tanto per fare un esempio accessibile, il Targum al Cantico dei Cantici, tradotto da Umberto Neri per Città Nuova, e questo Targum al Cantico dei Cantici è in realtà un Midrash a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Questo problema, diciamo così, che ci pone dei quesiti a cui dovremo tentare di rispondere. Vorrei solo notare questo, che sia il Targum, sia il Midrash, sia quella forma intermedia a cui accennavo adesso, hanno verso il testo biblico quella che Kugel chiama lettura versocentrica, cioè un'attenzione a quelle che lui chiama surface irregularities, irregolarità di superficie. Ecco, questo è un punto secondo me fondamentale. L'attenzione all'irregolarità di superficie è quella che distingue, o dovrebbe distinguere, fondamentalmente una traduzione ebraica da una traduzione cristiana, almeno prima della scienza biblica. È chiaro che io sto parlando di un particolarità di superficie che è il testo masoretico, ossia un testo in cui non vengono fatte congetture o sostituzioni o ricorsi a varianti, è scattato qualche cosa, o varianti delle antiche traduzioni o dei codici. Il problema dell'attenzione alle irregolarità di superficie, naturalmente, ha una preistoria, chiamiamola così, orale anch'esso, e poi una storia scritta. Vorrei citare una frase ancora che si trova in un'opera rabbinica, Pesikta Rabbati: se conserverete in scritto ciò che è stato ordinato, resti scritto, e conserverete orale ciò che è stato ordinato, resti orale, allora io ho fatto con te un'alleanza. Ecco, io ho fatto con te un'alleanza. Ma se voi metterete per iscritto ciò che è stato ordinato, resti orale, e direte oralmente ciò che è stato ordinato, resti scritto, allora io non conserverò con te la mia alleanza. La fase orale ha trasmesso, solo in parte però, alla fase scritta, questa attenzione alle irregolarità di superficie. E evidentemente, perché un testo scritto non può certo rappresentare quella mutevolezza che si ha quando il Targum ogni anno varia e ogni sabato può anche portare nuovi apporti, vero? Vorrei fare qualche esempio di quello che qui ho, diciamo così, ho esposto più genericamente e teoricamente. Questi esempi mostrano una cosa assai singolare, che mentre il Midrash, o il Targum Midrashico, se permettete questa espressione, ha massima attenzione alle irregolarità di superficie, mentre i commentatori anche odierni hanno una massima attenzione alle irregolarità di superficie, in realtà le traduzioni ebraiche, non il Targum, le traduzioni ebraiche fatte in epoca moderna o contemporanea, non hanno generalmente nessuna attenzione. E io mi sono domandato il perché, e la mia risposta è che fino a un certo punto le traduzioni moderne, successore dei Loasim, no? Venivano considerate un fatto pratico di scarsa importanza quando i fedeli capivano l'ebraico. In seguito sono avvenute sotto l'influsso della scala, cioè dell'illuminismo ebraico e dell'emancipazione. E quindi sono state largamente influenzate dalle traduzioni cristiane. E sono state sentite come surrogato e nulla di più. Ossia, c'è un'epoca, e quest'epoca comincia, diciamo, con Mendelssohn, Moses Mendelssohn all'incirca, seconda metà del Settecento, in cui si cominciano a stampare testi a fronte, sia nella scrittura, sia nei libri di preghiera. E allora noi notiamo che questa traduzione a fronte non ha più niente a che fare con la sacralità della traduzione antica, ma è in realtà qualche cosa di accidentale. Non si può dire della traduzione della Torah di Mendelssohn, ma si può dire dell'influsso esercitato da questo. Io ho raccolto alcuni esempi, ne avevo anche di più, ma devo confessarvi che l'altro ieri li ho persi tutti in treno, e comunque sono sufficienti questi. Sono alcuni esempi che mi capitano spesso facendo esegesi rabbinica sulla scrittura, e che trovo puntualmente contraddetti, trascurati, ignorati dalle traduzioni cristiane, anche senza necessità. Prendiamo un esempio, Genesi 4:10, il fatto di Caino e Abele, no? Quando Caino ha compiuto il suo omicidio, Dio gli dice: cosa hai fatto? Col de me achika zonachim elai. La voce dei sangui di tuo fratello gridano a me. Ho tradotto proprio adverbo. Il problema è i sangui. Perché i sangui? Qui onkelos passa sopra, traduce sangue, dam. Invece la Mishnah, nel trattato Sanhedrin, capitolo 4, fa un midrash, non solo qui, perché ogni midrash si trova più volte in giro per la letteratura rabbinica, fa qui un commento. Il presidente del tribunale rabbinico, del Sinedrio, quando è riunito il Sinedrio per un processo che potrebbe concludersi con la pena capitale, deve fare un ammonimento ai testimoni. E tra l'altro il presidente gli cita questo versetto e gli dice: voi pensateci bene a quello che direte, l'avete visto o l'avete sentito? L'avete sentito da persona credibile, degna di fede o no? Perché badate, la voce, quando è stato ucciso Caino, grida la voce dei suoi sangui, ossia la voce del sangue suo e quello è la voce del sangue dei suoi discendenti, che non possono nascere perché è stato ucciso. Quindi chiunque perde un uomo perde un mondo, e perciò voi pensateci bene prima di testimoniare. Ecco, se si traduce il sangue, questo midrash di natura profondamente toccante cade. Un altro esempio, in Esodo 6:7, Dio annuncia le sue intenzioni sull'uscita dall'Egitto. E in ebraico ci sono quattro verbi. Ve hozeti, vi farò uscire. Ve hitzalti, vi libererò. Ve ga'alti, vi riscatterò. E ve lakachti, vi eleggerò, vi prenderò come mio popolo. Alcune traduzioni traducono in vario modo i quattro verbi con quattro verbi. Qui non mi riferisco a una traduzione ebraica, ma alla traduzione della CEI. La CEI usa tre verbi soltanto, cioè usa due volte lo stesso verbo. Vi libererò, lo usa due volte. La tradizione liturgica ebraica collega questi quattro verbi alle quattro coppe della cena pasquale e ai quattro momenti dell'azione divina. È chiaro che non c'è nessun motivo per tradurre due verbi con un verbo solo. Anche perché è un'infedeltà pure semplice. Esodo 19:1, si prepara il Matan Toratenu, il dono della Torah, no? E singolarmente 19:1 dice nel quinto mese, eccetera, eccetera, Bayom Hase, in questo giorno Dio chiamò e radunò, eccetera, eccetera. Qui la tradizione ebraica è concorde, sia Onkelos nell'aramaico, sia Rashi nel suo commento, si fermano su dire perché questo giorno e non quel giorno. Invece le traduzioni, comprese quelle di ebrei, traducono in quel giorno, facendo cadere così quella che potremmo chiamare l'attualizzazione midrashica. La domanda di Rashi è: perché in questo giorno? Perché ogni volta perché la Torah viene data a te in ogni tuo giorno. Oggi per te è il dono della Torah, domani sarà il dono della Torah. Ancora due esempi. In Esodo 24:7 abbiamo una delle frasi che vengono più continuamente citate per rappresentare quella che si suol dire il primato dell'ortoprassi sull'ortodossia nell'ebraismo. È la conclusione dell'alleanza e Mosè, dopo aver detto quello che noi chiamiamo il codice dell'alleanza, fa un rito e poi legge il libro e il popolo risponde Kol asher diber Adonai naase venishman, tutto ciò che il Signore ha parlato noi lo eseguiremo e lo udremo. Onkelos e fedele a questa traduzione. Adesso vi leggo alcune traduzioni, sia ebraiche sia non ebraiche, anche per notare una cosa curiosa. I 70 panta osa elalesen curios poiesomen kai accusometa. Va bene. Cioè, è già presente la lettura poi rabbinica, per cui bisogna prima eseguire, in quanto il capire la Torah nasce come effetto dell'eseguirla. La Vulgata, omnia quae locutus est dominus, facemus et erimus obedientes. È curiosissimo quanto abbia influito nelle traduzioni questo erimus obedientes. Lutero, almeno nell'edizione riveduta che si usa adesso, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen. Diodati, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Diodati aveva forse la Vulgata sotto gli occhi? La King James: all that the Lord hath said will we do and be obedient. Avevano la Vulgata sotto gli occhi? Samuel David Luzzatto, Shadal, 1870, la traduzione più nota ebraica di ebrei con testa fronte. Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Rav Disegni, la traduzione del rabbinato italiano fatta negli anni 60 di questo secolo, da vari rabbini, ma l'Esodo è tradotto da Rav Disegni, che era il responsabile di tutto. Tutto ciò che ha pronunziato il Signore, e qui di Ber va bene, eseguiremo e ubbidiremo. La CEI peggio di tutto. Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Cioè crea un rapporto sinonimico, dice due volte la stessa cosa, senza nessun fondamento nell'ebraico. L'unico, almeno nelle traduzioni che ho avuto tra le mani, che ritorna alla lettura midrashica è Shurachi. Tous don parle Adonai, nous le ferons e nous l'entendrons. Che è anche abbastanza felice, perché c'è qualcun altro che traduce ascolteremo o udiremo con capiremo. Ecco, io ho dato ancora un esempio, poi passiamo alle conclusioni. In Giudici 12:7 si parla della morte e sepoltura di Jefte, che, dice il testo ebraico, fu seppellito B'nare Gilad, nelle città di Galaad. Il Bereshit Rabbà dà questa traduzione, da questa amplificazione, fondata su nelle città. Jefte morì con la perdita delle membra. Dovunque andava, si staccava un membro da lui e lo seppellivano là. Come è detto, e morì e lo seppellirono nelle città di Galaad. Certo, è un'interpretazione che ci fa sorridere, ma è presentata come la conseguenza del pessimo voto da lui fatto. Nessuno traduce oggi nelle città. In una città, in una delle città, eccetera. Ora, qual è la conclusione che vorrei fare, l'auspicio? Una traduzione oggi, e mi rivolgo soprattutto al mondo ebraico, cioè questa è un'esigenza nel mondo ebraico. Nel mondo cristiano sarebbe anche una cosa utile, e sarebbe utile soprattutto a coloro che si occupano di ebraismo nel mondo cristiano, ma nel mondo ebraico mi sembra essenziale, che una traduzione dovrebbe salvare quanto è possibile le possibilità midrashiche. Naturalmente, come La tradizione dice che il testo biblico ha 70 sensi. Ora, la pluralità dei sensi non è sempre salvabile con il Targum, perché quando il Targum è Targum o quando tende al Midrash, tende a selezionare un senso e a escludere gli altri. Ma qui è la differenza tra una possibile traduzione della Bibbia e il Targum. Il Targum o il Midrash ha diritto a scegliere una lezione, parafrastica finché si vuole. Una traduzione ebraica, cioè fatta da ebrei, voglio dire, in lingue nostre, ma fatta da ebrei, dovrebbe almeno non rendere impossibile quella che con termine tecnico si chiama davar acher, ossia altra interpretazione. Io leggo e interpreto, ma poi dietro alle mie spalle c'è una fila di tante davar acher, altre interpretazioni. Per ora non si vede, ripeto, non ho notizia se non di questa traduzione di Shurachi, che poi è criticabile sotto altri punti di vista. Nel mondo dell'ortodossia ebraica si usa, oggi si segue una via intermedia, cioè si fa una traduzione più fedele di quelle degli ebrei italiani, ma comunque non particolarmente salvatrice di possibilità, però si correda sempre di una catena di commenti tradizionali. Secondo Rosenzweig, mi rifaccio a lui come conclusione, il tradurre è in qualche modo una preparazione messianica. Rosenzweig parte da un presupposto piuttosto fantastico, cioè che tutte le lingue abbiano un elemento, qualcosa in comune, e la traduzione dovrebbe, trasferendo il comune da una lingua all'altra, procedere in direzione opposta a quella della Torre di Babele, cioè a portare a un'unificazione che sarebbe una preparazione messianica. Io credo che qui, questa è una conclusione non scientifica, è semplicemente il mio sentimento verso queste traduzioni ebraiche, che sì, è vero, la preparazione messianica come capo di una traduzione ebraica ci può essere, ma non come unificazione, bensì come diversificazione, ossia come svelamento dei sensi. È la ricchezza dei sensi, non l'unificazione dei sensi, che rappresenta una tappa messianica. E quindi la lettura, o diciamo una traduzione moderna, in lingua moderna, della scrittura, ha legittimità ebraica nella misura in cui non cancella con le sue scelte l'enorme patrimonio ermeneutico che sta nella tradizione di tutti questi secoli. Grazie. Posso andarmi a sedere? Ringrazio a nome di tutti voi, e mi pare che siamo stati introdotti veramente egregiamente nella complessità e insieme nella grandiosità di questi compiti. Se voi ritenete, e il professor De Benedetti ci sta, direi quasi di fare subito almeno un inizio di discussione su questo tema, per poi fare la pausa e rinviare a dopo la pausa, anche per tagliare un po' a metà il tempo. Vi piace questo? Allora prego, professore, sì. Grazie. Ecco, se posso cominciare io addirittura, direi che io sono stato molto impressionato dal tanto dal sentire come qui abbiamo a che fare con un Sitzungsleben della traduzione, che non è semplicemente il Sitzungsleben di quello che si mette a tavolino a tradurre un libro per pubblicarlo in un'altra sede. Ma il Sitzungsleben prevalente e predominante è liturgico, comunitario e orale, come è stato detto. E questo vuol dire molto. Credo che determini, no? Mi ha aiutato molto a capire questo. Noi invece siamo abituati a metterci a tavolino, prendere il vocabolario e insomma, quando ho tradotto la storia della Chiesa del Bielmeier Tüchle, io ho fatto così almeno, non mi sono messo né in comunità né a parlare né altro, no? E oggi i traduttori generalmente vedono il loro compito a questo livello e è già un limite grosso che taglia molte possibilità e appiattisce molte cose, mi pare, no? Poi mi ha fatto anche grande impressione il discorso su questo rapporto tra Bibbia, traduzione del testo della Torah e invece il compito dei Targum. Perché ho presente, adesso ho visto che è arrivato anche il padre Falsini, e insomma i liturgisti drizzano l'orecchio, la saluto padre, grazie, benvenuto. Ecco, c'è quell'articolo della Costituzione liturgica, numero 7, che dice che Cristo è presente nella sua parola in quanto Egli è colui che parla nell'atto in cui in chiesa si leggono le scritture. È stato discusso molto questo testo al Concilio, perché la prima proposta suonava nell'atto in cui in chiesa si leggono e si spiegano le scritture. Dopo c'è stata tutta una discussione che è andata piuttosto a cancellare nel testo definitivo la seconda espressione e si spiegano le scritture, soprattutto per un motivo, perché non si voleva attribuire all'omelia o a colui che predica la stessa infallibilità, era quello il concetto, che insomma vale per il testo biblico. In documenti successivi, anche ufficiali, io vedo che invece questo testo originario è stato ripreso. Cioè oggi non ho nessuna esitazione a valorizzarlo nella sua forma originale per dire Cristo parla, vero, nell'atto in cui in chiesa si leggono e si spiegano le scritture. Però questo grado diverso, questo porre su livelli diversi, certamente insomma, ci aiuta, mi pare, il discorso fatto questa mattina un po' a tenere insieme e anche a distinguere queste due cose. Ma questo mi convince una volta di più che appena noi parliamo delle nostre cose cristiane bisogna continuamente riferirsi al mondo ebraico che ci ha preceduto e che invece per secoli siamo cresciuti in una autonomia da tutto quel mondo, vero, che ci ha terribilmente impoveriti e ci rende molto inabili anche ad affrontare tanti problemi. Volevo aggiungere una cosa, che da alcuni anni è costituita una commissione, ma forse il professor Buzzetti ne sa più di me, per raccogliere correzioni alla Bibbia della CEI. Per quanto mi consta è una commissione di vescovi e questo mi rende un po' scoraggiato a proporre correzioni. E lo scoraggiamento è cresciuto in quanto ho sentito nel mondo editoriale affermare che anche se si raccoglieranno queste correzioni non verranno eseguite. Io ho parlato solo per iniziare, vero? Collega Don Creci. Un'altra domanda, lei ha parlato due volte alla lettura, diciamo, del Raio, una volta il Targum. Posso capire questo che prima si legge il diciamo, il testo come testo, poi si legge un'altra volta intercalato versetto per versetto di Cantù? No, cioè versetto per versetto lo fa il Meturgeman in sinagoga, lo faceva, ben inteso. Invece, due volte il testo e una volta il Targum a casa, come preparazione o riflessione dopo. Sì. Ma io credo che si possa parlare di manuale per il Targum di Onkelos, solo. Mentre gli altri Targumin sono poi diventati letteratura rabbinica e alcuni si sono anche persi e poi ritrovati. Pensiamo a Neofiti. Il Targum Neofiti è andato perduto, poi è stato ritrovato da Dietz Macho, mi pare, se non erro. E così alcuni sono solo frammentari. Cioè, c'è stato un doppio destino. Onkelos è sacralizzato, canonizzato, e quindi è autorevole. Gli altri non sono autorevoli. E perciò una volta messi per iscritto sono diventati materiale di scuola, ecco, diciamo così. Gerolamo, quando traduceva i deuterocanonici, non andava tanto per il sottile, anche lì. Ma io credo che lei abbia ragione e che in fondo questo terzo polo emerga bene dal rapporto Rosenzweig-Buber, perché per loro era un problema sempre presente in ogni pagina, perché le cose andavano così. Buber faceva una prima traduzione, poi la mandava a Rosenzweig e allora discutevano. Perché per loro era importantissima l'ordine delle parole, importantissimo anche che la parola tedesca avesse nei limiti del possibile una preistoria, voglio dire una genealogia di radici analoga a quella della parola ebraica, e che in sostanza il loro principio era il tedesco che deve sforzarsi, non è. Quindi di fatto loro andavano verso il secondo polo di Schleiermacher, però personalmente era il terzo polo. Certo che il traduttore, nessuno, ma questo anche per anche libri non biblici, tutti quelli che hanno esperienza di traduzione sanno che il traduttore è una persona che soffre e quante volte vorrebbe consultarsi, ma con chi? Lì Buber, Rosenzweig, sì, ma nel caso per esempio di tradurre la scrittura vorrebbe, e qui è qui da Varacher, vorrebbe tradurre in due o tre modi diversi e metterli tutti. E lì c'è il Midrash, ma certo che del resto non abbiamo toccato perché non era forse la sede o non tocca a me qui, il problema della bellezza della traduzione. Ora, è incredibile come il testo ebraico, non ha molto senso dire se è bello o brutto linguisticamente, è un testo classico, tradizionale, con le sue varianti anche di storia della lingua, eccetera. Ma quando si sente leggere in chiesa, non so in che momento dell'anno, un passo di Amos in cui si parla di orge dei buontemponi, così dice la CEI, ma possibile che si sia così poco riverenti verso la parola di Dio, da parlare di orge dei buontemponi? Tra l'altro i buontemponi, poveretti, non è che facciano necessariamente delle orge. E quindi, accanto a tutti gli altri inconvenienti, bisognerebbe anche mettere le cadute di gusto. Ma forse il traduttore che mette le orge dei buontemponi è forse l'unico che non soffre. La sofferenza del traduttore è forte, la sofferenza di uno che vuole che l'ascolti, ascolta chi legge, colga il messaggio della freschezza della fonte, proprio della fonte. E questo allora dice: colgo con una traduzione più libera, ma più nella lingua dell'auditore, con una traduzione fresca, quindi contemporanea, o lo colgo più nella fedeltà ad alcuni, invece, signor Roger, quando si dice la parola memoriale non si traduce con un ricordo. Così è un po' intraducibile, allora esige uno sforzo teologico di comprensione che è una lunga parata, uno studio, non si tradisce. Certo. E questa è la difficoltà, la sofferenza che tutte le traduzioni certe, e nel predicatore che vuole far capire la traduzione vera, questa difficoltà è qualcosa di consigliabile. Sì. Fino a che punto è giusto facilitare la lettura dell'utente? Qualche volta si va molto avanti in questa direzione, primo corno di Schleiermacher. Ma fino a che punto? Esdra in Neemia 8 faceva una lettura e c'erano accanto a lui dei sacerdoti che facevano capire. Ora, facevano targum o semplicemente facevano capire? Sta il fatto che lì c'è già questa antinomia, che deve essere proclamata, ma ci vuole qualcuno che faccia capire. Sì. Prego. In breve rispondo a un appello. È vero, esiste un gruppo di revisione della CIA, eccetera. Io sono presente da tangente, siccome non sono un bel gruppo di lavoro, c'ero qualche tempo fa, ce ne sono due diversi, quindi sono una decina di persone. Ah beh, a me avevano dato una notizia più pessimistica. Però può darsi che quelli che decidono siano tutti questi, che sono lì, il risultato si vedrà. Volevo chiedere invece una cosa in questo ambito evidentemente molto interessante e che penso fa un po' da punte alla relazione seguente, cioè alcune considerazioni delle versioni bibliche della tradizione ebraica. La 70, secondo lei, si può considerare una tradizione ebraica? E in questo caso appunto non è tanto dentro, ma appunto è una di quelle traduzioni considerate nella lingua degli altri popoli, o perché mi pare molto critica questa situazione. Non è vero, no? Si potrebbe. Io non esprimo un parere mio perché, non essendo studioso della 70, non sarebbe giusto. Posso solo dire quello che loro sanno, ossia che nella storia della ricezione della 70, fino a un certo momento, penso sia stata considerata Targum e dopo è stata considerata Loas. E quindi è stata, si dice che fino a una certa epoca facesse una festa per celebrare la traduzione e poi invece l'hanno sostituita con Aquila o Teoduzione Aquila, sì. E perché? In realtà la 70 non è molto diversa nella sua libertà interpretativa da un Targum, solo che il giudaismo di lingua greca è stato soccombente. E poi c'è un altro elemento, è diventata la Bibbia cristiana. Bene. Professore, sì. Io sono un semplice ascoltatore, quindi non dirò parlare di questo libro. Ma scrivere capitolare. La Bibbia, se ho capito bene, è la parola di Dio, non contiene la parola. Quindi è la parola di Dio. Dio ha parlato. Qualcuno ha raccolto nel tempo, all'epoca, la parola. Forse l'hanno scritta, se c'era la sua scrittura, io non so. Sì. Se c'era allora la sua parola, Dio ha scritto la sua parola. O comunque questa parola è stata raccolta e se non scritta è stata riferita attraverso una generazione. Ad un certo punto qualcuno ha messo nero sul bianco, ha scritto in una lingua, forse in greco, in una lingua. Poi qui cominciano i traduttori. Allora il traduttore deve essere, sarà il traduttore della parola scritta, della parola vera o della parola riferita, e una parola riferita è sempre una parola tradita. Se quindi il traduttore è il traduttore dei traduttori, come era il nostro Monti, o è un traduttore che deve essere il traduttore della parola di Dio per chi doveva ascoltarla allora, con la cultura di allora, o deve essere il traduttore della parola di Dio quando deve essere ascoltata dagli uomini di oggi che hanno una cultura diversa, diversa e una scienza diversa. Questo pare a me, che sono ignorante in materia, il tema principale. Lei ha ragione nel suggerire che una traduzione non ha una vita eterna, è vero. Cioè ogni generazione, io ero arrivato anche a formulare il paradosso che per me ci vorrebbe forse una traduzione diversa ogni giorno, ogni stato d'animo. Cioè la traduzione ha il suo valore nell'essere caduca, nell'essere temporanea. Poi quanto alla parola di Dio... Mi permetta di fare una citazione cabalistica addirittura. La vera, vera, vera parola di Dio sta nel bianco che c'è intorno alle lettere della Torah. Bene, con questo penso che possiamo intanto accontentarci e ringraziare. Facciamo